ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Tredicesima puntata. Serena era l'aria fredda e le campane non volavano più per il cielo, tacevano nel nido loro. Ma ancora si distinguevano i colori delle cose nella piccola strada. Io vidi e gridai: «Guardate! Una bandiera!» «Bandiera!» disse la Rotino. E l'uomo Ezechiele: «Che bandiera?» «A quella porta!» dissi io. E l'uomo Ezechiele: «Ma è Porfirio! È il paniere!» Risero i miei due compagni e io mi ricordai dell'usanza che si aveva in Sicilia di indicare le botteghe di stoffe con un panno appeso fuori della porta. Non importava di che colore fosse, poteva essere verde, poteva essere giallo, poteva essere azzurro. Dove c'era un panno significava che c'era un paniere, si vendeva stoffa. Lì il panno era rosso e l'arrotino disse rivolto a me: «Però Porfirio ha mezzo paio di forbici». «Ah sì?» dissi io. «Sì», l'arrotino disse. «E quando qualche volta mi dispiace di seccare sempre Ezechiele per il punteruolo, mi faccio dare le forbici da Porfirio». Qui Ezechiele propose: «Forse è il caso di presentare il nostro amico a Porfirio». «Forse sì», l'arrotino disse. Mi portarono dentro e il trabiccolo per arrotare rimase di nuovo sulla strada. Ma la bottega non era profonda. Era una specie di alcova con le stoffe ammonticchiate in alte pile su alcune sedie, tutte vicine alla porta. «Entrate! Prego!» Una chiara voce invitò dall'interno buio. «Buonasera!» salutarono. «Buonasera!» E la voce continuò. «Buonasera! Stavo per chiudere!» «E il panno lo lasciavate fuori?» l'arrotino chiese. «No, ora lo ritiravo!» rispose la voce. E l'uomo Ezechiele disse: «Rosso di nuovo oggi». E la voce: «Sì, è da qualche tempo che metto rosso. Ma domani cambio in turchino». E l'uomo Ezechiele: «Sicuro, il mondo è vario». E la voce: «Vario, bello, grande». «Ed è molto offeso», mormorò l'uomo Ezechiele. L'arrotino disse allora: «Parlagli del nostro amico, Ezechiele». «Che amico?» la voce chiese. Un'umana forma si mosse dietro a quella voce nel buio e parve che si muovesse tutto il buio. Era gigantesca. Fuori da tanto uomo, venuto vicino a me nel chiarore della porta, la bella voce calda chiese di nuovo: «Che amico? Questo signore qui?» «Questo signore», l'uomo Ezechiele rispose. «Come te, Porfirio, e come Calogero Arrotino, come me, come certo molti altri sulla faccia della terra, egli è uno che soffre per il dolore del mondo offeso». «Ah!» esclamò l'immenso uomo. Mi venne ancora più vicino e una tepida brezza, suo fiato, mi scompigliò i capelli sulla fronte. «Ah!» egli esclamò di nuovo. Scese la sua larga mano dall'alto, cercò la mia e me la strinse in una stretta che, malgrado tutto, era gentile. «Mi compiaccio», egli disse di sopra alla mia testa, e rivolgendosi agli altri chiese: «Soffre, avete detto». Scirocco caldo era il suo fiato nei miei capelli, e sempre tenendomi la mano con forza gentile, l'uomo ripeté: «Mi compiaccio». «Prego», risposi io, «non c'è di che». «Oh», l'uomo disse, «c'è molto di che. Sono onoratissimo, e io, mio è l'onore». E l'uomo: «No, tutto mio, signore». E di nuovo, rivolgendosi agli altri, mentre volavano i miei capelli sotto il suo fiato, di nuovo chiese: «Egli soffre, dunque?» «Sì, Porfirio», l'uomo Ezechiele rispose. «Soffre e non per se stesso». «Non per le piccolezze del mondo», spiegò l'arrotino. «Non perché gli hanno fatto la contravvenzione, non perché ha cercato di giocare un piccolo scherzo al suo simile». «No», l'uomo Ezechiele disse. «È per il dolore universale che soffre». E l'arrotino disse: «Per il dolore del mondo offeso». Nel buio, l'omone Porfirio mi toccava ora la testa, la faccia, e di nuovo esclamò: «Ah!» Poi disse: capisco e apprezzo. Forbice e coltelli! Urlò allora l'arrotino. Forbici, ripeté piano l'uomo Porfirio. Era una massa di buio, con un calore che gli usciva da qualche parte a girare tra noi come benefica corrente del golfo, e con vento in cima e con voce dolce, profonda. Coltelli, egli ripeté, e dolcemente, profondamente, disse: no, amici, non coltelli, non forbici. Nulla di tutto questo occorre, ma acqua viva. Acqua viva, mormorò l'arrotino. Acqua viva, mormorò anche l'uomo Ezechiele. E l'uomo Porfirio continuò: ve l'ho detto mille volte e ve lo torno a dire. Solo l'acqua viva può lavare le offese del mondo e dissetare l'uman genere offeso. Ma dov'è l'acqua viva? Dove ci sono i coltelli c'è acqua viva, l'arrotino disse. Dove c'è dolore per il mondo c'è acqua viva, disse l'uomo Ezechiele. Eravamo immersi nella notte ormai e le voci si abbassarono. Nessuno più avrebbe potuto udirci parlare. Stavamo vicini con le teste vicine e l'uomo Porfirio era come un enorme cane nero di San Bernardo che tenesse raccolti tutti e se stesso nel calore del suo pelo. A lungo egli parlò dell'acqua viva e parlò l'uomo Ezechiele, parlò l'arrotino. E le parole furono notte nella notte, e noi fummo ombre. Io credevo di essere entrato in un conciliabolo di spiriti. Poi la voce dell'uomo Porfirio tornò alta. «Andiamo, vi offro un bicchiere di vino da Colombo», egli disse. E tirò giù il panno appeso alla porta, chiuse, ci condusse avvolti nella sua calda corrente per la strada. Solo dentro da Colombo egli acquistò lineamenti e colori. Apparve alto 2 metri, largo 1 metro, vestito di pelo bruno, con la testa piena di capelli, uno bianco e uno nero, con occhi azzurri, barba castana e mani rosse. Veramente un gran cane di San Bernardo dallo sguardo generoso. «Salute, Colombo!» disse entrando. Anche il trabiccolo dell'arrotino entrò con noi e il locale era rischiarato all'acetilene e uomini cantavano «E sangue di Santa Bumbila!». Colombo, dietro al banco, era un uomo con un fazzoletto giallo legato alla piratesca intorno al capo. «Ole!» egli rispose e l'uomo Ezechiele disse «Vino, questi signori sono ospiti miei, tuoi!» protestò dolcemente l'uomo Porfirio. «Io ho invitato tutti!» Gli uomini che cantavano erano seduti su una panca contro il muro, senza tavolo davanti, e tenevano piccoli boccali di ferro in mano. Cantavano dondolando capo e busto con movimento simultaneo. «Ma io prima avevo invitato loro!» spiegò Ezechiele. «Ecco il vino!» Colombo disse, e mise sul banco 4 boccali colmi. Poi, sorridendo, aggiunse: «Questo può essere l'invito del signor Ezechiele, e poi ci può essere l'invito del signor Porfirio». «Naturale», disse l'uomo Ezechiele. «Capisco e apprezzo», disse l'uomo Porfirio, e alzò il suo boccale. «Molto onorato». L'uomo Ezechiele si inchinò, io pure mi inchinai, e l'arrotino gridò «Viva!». C'era un braciere acceso in mezzo a quel locale senza tavoli, e accoccolati vicino ad esso 2 giovani bifolchi si scaldavano le mani. Colombo mesceva da una botte, preparava nuovi boccali e gli uomini si dondolavano sulla panca cantando piano. E dal suolo, dai muri, dall'oscura volta sgorgava odore secolare di vino, accumulato sul vino. Tutto il passato del vino nell'uomo era presente intorno a noi. «Viva che cosa?» domandò l'uomo Ezechiele. «Viva questo!» l'arrotino rispose alzando il boccale suo. «Questo», disse l'uomo Porfirio. «Che cos'è questo?» Bevve e tutti bevvero, anche io bevvi, e i boccali risuonarono vuoti sullo zinco bagnato del banco. Colombo arrivò dalla botte con nuovo vino. «Mondo!» l'arrotino gridò. «Terra! Bosco e nani del bosco, bella donna, sole, luce, notte e mattina, fumo di miele, amore, gioia e fatica e sonno senza offesa, mondo senza offesa. E sangue di Santa Bumbila, cantarono rauchi gli uomini della panca. Eravamo al secondo boccale. La filastrocca trovò sorde l'aria e le pareti. «Non credo», disse l'uomo Porfirio. «Eppure», l'uomo Ezechiele disse. «No, occorre acqua viva», disse l'uomo Porfirio. «Olè, acqua viva!» gridò Colombo il cantiniere. «Ecco qua, acqua viva!» «Non è questa acqua viva!» «Tenete, uomini! Gioia, vita, acqua viva!» Scosse l'enorme capo l'uomo Porfirio, ma bevve. E tutti bevvero, anch'io bevvi. E i due bifolchi vicino al braciere bevvero con gli avidi occhi. Gli uomini della panca cantarono dentro i boccali scolati. «Alberi e fichi freschi, aghi di pino», l'arrotino continuò, «stelle nei cuori onorati, mirra e incenso, sirene del mare profondo, libere gambe, libere braccia, liberi petti, capelli e pelo al vento in libertà, corsa e lotta libera». Cantarono gli uomini dalla panca. Dissero i due seduti vicino al braciere. Altri uomini entrarono. Colombo gridò «Olè!» e versò vino, e anche lui beveva. E sotto la volta cupa non vi era che il vino ignudo attraverso i secoli, e uomini ignudi in tutto il passato del vino, tanfo nudo di vino, nudità del vino. «Bevete, amico!» l'arrotino mi disse, e mi porse il terzo boccale. L'uomo Porfirio notò allora «L'amico nostro è forestiero!» «Sì, è forestiero!» confermò l'uomo Ezechiele. «Lo ha conosciuto Calogero per il primo». «Egli ha una lama!» l'arrotino gridò. «Egli ha l'acqua viva! Egli soffre per il mondo offeso! E il mondo è grande, il mondo è bello, il mondo è uccello e allatte, oro, fuoco, tuono, inondazione, acqua viva a chi ha l'acqua viva!» «Ecco l'acqua viva, uomini!» disse Colombo. E anche lui beveva, anche lui era ignudo nella nudità del vino, era il nano delle miniere di vino. «Non sono tanto forestiero», risposi io all'uomo Porfirio. «Non tanto?» disse l'uomo Ezechiele. «Come non tanto?» chiese l'uomo Porfirio. Bevendo piano dal mio terzo boccale, io spiegai che non ero tanto forestiero, e gli occhi piccini dell'uomo Ezechiele brillarono di soddisfazione. «Ah, ma guarda!» esclamò l'uomo Porfirio. «Non sapevate che è figlio della Ferrauto?» disse il nano Colombo. E l'arrotino gridò «La Ferrauto ha molti coltelli! Viva la Ferrauto!» Tutti erano andati al fondo del terzo boccale. Solo io ero ancora a metà e l'arrotino me lo vuotò in terra. Disse che doveva avere il quarto con loro. «Conoscevo vostro nonno», l'uomo Porfirio disse. «Chi non lo conosceva?» gridò l'arrotino. «Egli aveva l'acqua viva!» «Sì», disse l'uomo Porfirio. «Egli veniva qui con me. Bevevamo insieme». «Era un gran bevitore», osservò Colombo il nano. Dalla panca contro il muro gli uomini cantavano ora con malinconia. «E sangue di Santa Bumbila!» cantavano sempre e dondolavano il capo, il busto, erano mestamente ignudi nella matrice di nudità del vino. «Anche lui soffriva per il mondo offeso», l'uomo Ezechiele disse. «Mondo offeso? Che mondo offeso?» gridò l'impudico nano del vino. «E anche vostro padre ho conosciuto», disse l'uomo Porfirio. «Siamo stati amici», soggiunse l'uomo Ezechiele. «Era poeta e attore shakespeariano, Macbeth, Amleto, Bruto. Una volta ci ha dato una recita». «Ah, magnifica occasione!» l'arrotino gridò. «Coltelli e tridenti, ferri arroventati!» Tutti bevevano dal quarto boccale. Solo io tenevo in mano il mio ancora intatto, ascoltando di mio padre dinanzi al vino. «Si veniva qui a bere insieme», disse l'uomo Porfirio. E l'impudico gnomo osservò. «Fu qui che diede quella recita. Venne con un mantello rosso e a me disse che ero il re di Danimarca». «A me disse che ero Polonio», mormorò umilmente l'uomo Ezechiele. Poi aggiunse. «Ah, soffriva molto per il mondo offeso». Qui l'arrotino gridò di nuovo. «Viva!» E l'uomo Porfirio di nuovo domandò. «Viva che cosa?» «Viva, viva!» l'arrotino gridò. «Viva!» gridò un ubriaco. «Viva!» gridò un altro ubriaco. «Viva!» mormorò umilmente l'uomo Ezechiele. Evviva, viva, viva! Cantarono dalla panca i mesti uomini che si dondolavano. Così, sofferenti per i loro guai personali e sofferenti per il dolore del mondo offeso, stavano insieme nel nudo sepolcro del vino e potevano essere come spiriti partiti infine da questo mondo di sofferenze e di offese. Seduti in terra vicino al braciere, i due giovani senza vino piangevano. «Ancora un boccale a me e agli amici», ordinò l'uomo Porfirio. Egli si era sbottonato l'enorme pelo in cui viveva, mostrava le membra, e l'uomo Ezechiele si era sciolto dal viluppo dello scialle. «Sarà l'ultimo boccale», l'uomo Porfirio mi disse, «ma sarà un boccale ancora». Egli aveva bevuto già 6 boccali. Ezechiele e Larutino ne avevano bevuto 5, io ero sempre al mio quarto, quasi pieno. Enorme, rosso nelle mani e la faccia, bianco e castano nella barba, bianco e nero nei capelli, egli troneggiava in quel sottoterra del vino. Era uomo, non apparteneva al vino come Colombo, lo gnomo, ma era un gran re conquistatore che abitava in quella sua conquista oltremondana, nel vino. Pure negava che il vino fosse acqua viva e non dimenticava il mondo. «Non vi illudete». «Non vi illudete», diceva. «Che cosa?» diceva Larutino. E l'uomo Ezechiele girava intorno ai suoi occhi piccini con sgomento improvviso. «No!» sembravano urlare i suoi occhi. E allora l'uomo Porfirio, chiusa la mano rossa sull'impugnatura del 7° boccale, assicurava che non c'erano più piccolezze del mondo dove c'era vino. «Ma le offese del mondo?» «Le terribili offese all'uman genere e al mondo?» chiedeva l'uomo Ezechiele. «Io, ripeto, ero sempre al quarto boccale. Qualcosa mi aveva fermato al principio di esso e non potevo più bere. Non osavo più inoltrarmi nella squallida nudità senza terra del vino. Bevete, amico!» l'uomo Porfirio mi incitava. «Cercavo io». E prendevo un sorso fra le labbra e il vino sembrava buono per se stesso, così tra le labbra. Eppure io non potevo berlo. Per tutto il passato umano in me, sentivo che non era cosa viva spremuta dall'estate e dalla terra, ma triste, triste cosa fantasma spremuta dalle caverne dei secoli. E che altro poteva essere in un mondo sempre offeso? Generazioni e generazioni avevano bevuto, avevano versato il loro dolore nel vino, cercato nel vino, la nudità e una generazione beveva dall'altra, dalla nudità di squallido vino delle altre passate e da tutto il dolore versato. «E sangue di Santa Bombila!» cantavano i mesti uomini della panca. Ognuno nel locale aveva ormai chinato il capo, ognuno era mesto. Larutino era mesto con occhio esplosivo, Ezechiele era mesto con occhio spaventato. Si guardava intorno nell'ansioso panico di rivedere le forme del mondo offeso. Egli era stato Polonio dinanzi a mio padre shakespeariano. E l'uomo Porfirio? Che poteva essere stato l'uomo Porfirio dinanzi a mio padre Amleto? Egli era il solo sereno, perché era rimasto il solo non illuso, e tuttavia era gravemente responsabile. Ci guardava me, l'Ezechiele, l'Arrotino e gli ubriachi in piedi dinanzi al banco, i due giovani che piangevano seduti per terra dinanzi al braciere, gli uomini che cantavano sulla panca. Mesti, essi dondolavano il capo cantando sulla panca e pareva che lo dondolassero come alcuni lo dondolano quando piangono. E il canto loro era roca lamentazione. A lungo l'uomo Porfirio guardò loro, poi di nuovo guardò Ezechiele, me, Larutino, guardò i due giovani piangenti che non avevano bevuto nulla tutta la sera. E io pensai che era forse costernato di averci trascinati al suo seguito, tanti uomini, in quello squallore di conquista sotterranea. Ma egli era sereno, invece, e si isolò in sovrannaturale rapporto con lo gnomo Colombo. Non guardò più nessuno, e la sua faccia fu ridente, non vide altro dinanzi a sé anche l'ignuda felicità d'agnomo del vino di Colombo. E giacque nella matrice del vino e fu ignudo in beato sonno, seppur all'impiedi. Fu il ridente addormentato antico che dorme attraverso i secoli dell'uomo, padre Noè del vino. Io lo riconobbi e posai il boccale. Non era in questo che avrei voluto credere, in questo non c'era mondo. E andai via, attraversai la piccola strada, giunsi dove abitava mia madre. La casa era sull'orlo della china di tetti verso il vallone. Salii la scaletta esterna, fui sul pianerottolo. Sapevo che mi sarebbe piaciuto non aver da entrare, non avere da cercare cibo e letto, essere piuttosto in treno. E mi fermai. Il freddo era intenso e in basso c'erano lumi. In alto pure, a piccoli gruppi sparsi di 4 o 5. E l'aria era azzurra. Nel cielo scintillava il ghiaccio di una grande stella abbandonata. Era notte sulla Sicilia e la calma terra. L'offeso mondo era coperto di oscurità. Gli uomini avevano lumi accanto, chiusi con loro nelle stanze, e i morti, tutti gli uccisi, si erano alzati a sedere nelle tombe. Meditavano. Io pensai, e la grande notte fu in me, notte su notte. Quei lumi in basso, in alto, e quel freddo nell'oscurità, quel ghiaccio di stella nel cielo, non erano una notte sola. Erano infinite. E io pensai alle notti di mio nonno, le notti di mio padre, le notti di Noè, le notti dell'uomo, ignudo nel vino e inerme, umiliato, meno uomo d'un fanciullo o d'un morto. Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.